get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera, buonasera e ben sintonizzate. Eccoci di nuovo qui, ci facciamo ancora una volta reciproca compagnia. Quella che ascolterete tra poco è una trasmissione tutta nuova. Fischia un po', ma garantisco che è tutta nuova. Siamo Rossella e Monica e abbiamo voluto intitolare la trasmissione di oggi Il colore viola delle parole. Un tuffo proprio direttamente nelle parole, nei versi e nelle narrazioni di alcune scrittrici italiane e non che hanno parlato da donne a donne, raccontandoci appunto il loro essere lesbiche o semplicemente il loro faticoso esistere in un mondo che non le vuole, come sappiamo, non le pensa, non le vede perché non le rappresenta a sé e agli altri. Benissimo, e adesso subito la prima musica, iniziamo dolcemente con una musica che ci faccia compagnia, una musica che abbiamo di una diciamo cantante esecutrice che abbiamo altre volte messo, portoghese, che si chiama Dulce Ponte, il titolo è Come Maddalena ed è tratto dal CD Focus. Pedras não são de ninguém em Jerusalém. De cada pedra o dono é o tempo que tem. São pedras sobre pedras, dizem Jerusalém. Falam, falam, mas ninguém ouve bem. E a história recomeça sempre em Jerusalém. E mais as mil histórias que essa história conta. Histórias de amor e sentimento. In questa società la vita, nel migliore dei casi, è una noia sconfinata e nulla riguarda le donne. Dunque, alle donne responsabili, civilmente impegnate e in cerca di emozioni sconvolgenti, non resta che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione globale e distruggere il sesso maschile. Oggi è tecnicamente possibile riprodursi senza l'intervento dei maschi, o persino senza le femmine, e produrre soltanto femmine. Dobbiamo cominciare a farlo subito. Il maschio è un incidente biologico. Il gene Y, maschio, è un gene X, femmina, incompleto, vale a dire una serie incompleta di cromosomi. In altri termini, il maschio è una femmina mancata, un aborto ambulante, abortito a livello genetico. Essendo una femmina incompleta, il maschio trascorre la vita cercando di completarsi, di diventare femmina. Ecco perché è sempre alla ricerca della femmina e cerca di fraternizzare, di fondersi e di vivere attraverso di lei. Ecco perché rivendica a sé tutte le qualità femminili, forza e indipendenza emotiva, energia, dinamismo, risolutezza, sangue freddo, obiettività, coraggio, grinta, integrità, vitalità, intensità, profondità di carattere, sensualità, e proietta sulle donne tutte le caratteristiche maschili, vanità, frivolezza, superficialità, debolezza e così via. E così diceva nel suo manifesto SCUM, che è un acronimo, cioè in inglese vuol dire feccia, ma vuole anche dire Society for Cutting Up Men, ovvero manifesto per l'eliminazione dei maschi, una donna passata alla storia per un fatto, diciamo, eclatante, particolare. Si tratta di Valérie Solanas ed era un'attrice in erba e frequentava quella fucina di talenti e molto altro ancora che era la Factory, il quartier generale di Andy Warhol a New York. Perché è passata la storia? Perché il 3 giugno del 1968 Valérie Solanas andò alla Factory, estrasse la pistola e sparò a Andy Warhol. Ovviamente, rileggendo dopo tantissimi anni il suo manifesto da un linguaggio aggressivo, da un linguaggio senza, cioè che non concede nulla, molto forte, e è chiaro che fa un certo effetto, e Valérie Solanas comunque è diventata veramente una figura mitica per il movimento femminista. E quindi dicevo, riletto oggi, il manifesto fa esattamente un effetto e noi ci sentiamo anche in qualche modo vicine ad alcune sue posizioni, anche se indubbiamente estremisti in alcuni casi, che però vogliono rivendicare l'individualità delle donne e il loro essere e la loro dignità nel mondo. Adesso allora un intermezzo musicale. Ancora un'artista, donna naturalmente, questa volta un'italiana, Fiorella Mannoia, Metti in circolo il tuo amore. Hai cercato di capire e non hai capito ancora se di capire si finisce mai. Hai provato a far capire la tua voce, anche solo un pezzo di quello che sei. Con la rabbia ci si nasce o ci si diventa, e tu che sei un esperto non lo sai, perché quello che ti spacca e ti fa fuori dentro forse parte proprio da chi sei. Metti in circolo quando dici perché no, metti in circolo il tuo amore. Come quando ammetti, non lo so. Come quando dici perché no. Non capisci e quindi non sopporti, perché ti sembra non capiscante. Quanti generi di pesci e di correnti forti, perché questo mare sia come vuoi te. Metti in circolo il tuo amore, come fai con una novità. Metti in circolo il tuo amore, come quando dici si vedrà, come fai con una novità. Per provare a immaginare quest'amore, immaginare l'on detto dei sentimenti, delle sensazioni, degli amori, delle donne, ci facciamo aiutare dalle parole di una scrittrice italiana di cui abbiamo già in altri casi fatto sentire la voce. Una scrittrice italiana di cui poco si parla purtroppo e che sarebbe ora di riportare all'attenzione, allo studio, alla passione delle lettrici. Fausta Cialente, Fausta Terni Cialente in realtà si chiamava, nata a Cagliari nel 1898 e morta a Londra nel 1994. Questa donna, che è autrice di molti romanzi, nel 1930 riceve da una giuria a cui apparteneva il ben più noto Massimo Bontempelli premio per un romanzo ancora inedito, sarà infatti pubblicato proprio grazie a questo premio, scritto un anno prima, nel 29, che si chiama Natalia. Natalia è la protagonista della vicenda e inizia quella che potremmo definire una vera e propria educazione sentimentale con una relazione lesbica con l'amica d'infanzia Silvia. E ricordo che proprio questo episodio, insieme a un altro episodio politico in cui, diciamo così, la Cialente chiamava quella di Caporetto una disfida, questi due episodi costarono la censura al libro della Cialente, che ancora molti anni dopo, nel 1982, quando lo ripubblicò, ridimensionò fortemente proprio questo episodio. Ma allora, nel momento di nascita, nel momento germinale, l'amore lesbico di Natalia per Silvia e di Silvia per Natalia occupa alcune delle pagine più belle del romanzo, e noi ve le vorremmo proporre. Il fuoco commise una sciocchezza, morì. Il fuoco spento nel caminetto si era acceso in lei, le bruciava le vene, le scottava le ciglia. L'immobilità di Silvia era un invito che l'attirava come un gorgo. Non fu meravigliata quando si accorse che le sue dita, più rapide della sua volontà, avevano giocato nell'apertura della vestaglia bianca, ma le sue mani dovevano essere ben fredde, giacché il tepore dei dolci seni le fu tanto gradevole. Li trovò insieme, rigidi e flessuosi. Pensò, ecco, se ora dovessi raccontare questo, lo racconterei con parole straordinarie. Non poteva vedere che gli occhi di Silvia erano velati, perché gli ultimi bagliori chiazzavano appena l'orlo della sua veste. E non seppe mai come fu, che baciandola poté lentamente rovesciarla sul tappeto. La Vergine era matura, come un frutto, era caduta, molle, sul tappeto. Natalia, che non aveva voluto proprio questo, fece di lei quello che aveva confusamente sognato di fare. L'altra conobbe sola tutta la felicità.

primo componimento poetico, dal titolo So, scritto da una cara amica, compagna, Giovanna Olivieri, una tra le, diciamo, più intelligenti, volitive femministe storiche, fondatrici del Centro Femminista Separatista e del progetto Archivia presso la Casa Internazionale delle Donne. So che non perdonerai mai la mia potenza, il mio mimetismo, il mio sperimentalismo, le mie improvvise e ingiustificate indisponibilità, i miei tradimenti, il mio passato, il fascino che nonostante tutto il mio mistero ti fa subire. So che non me li perdonerai perché non sai riconciliarti con te stessa. E ora un altro intermezzo musicale di Aretha Franklin, Sister from Texas. Ricordiamo che siete all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbica autogestito, ormai lo sapete, sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci attraverso il sito www.ondarossa.info oppure tramite il sito del CLR www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo chi ci ascolta via internet, fateci sapere da quale città si state ascoltando, se siete a Roma fateci sapere la zona e la qualità del segnale. Ed ora riprendiamo la nostra cavalcata nelle scritture. Vi vorremmo proporre un'altra scrittrice italiana, ormai notissima, Sibilla Leramo, di lei si sa tutto, si hanno quintali e quintali di materiali inediti, archivi, ricordi, libri, testi, eccetera, eccetera, rivendicata da, come madre di tutte noi, dalle femministe, naturalmente, quindi un modello, diciamo, anche un modello di donna indipendente, trasgressiva, che lei stessa ha contribuito a creare grazie al romanzo Una donna, che come sapete rivisita in chiave autobiografica la propria esperienza di violenza subita, di sposalizio con uno stupratore, come sappiamo, di madre e costretta ad abbandonare i figli per dedicarsi alla vita che è a loro più congeniale. Questo destino però, come sappiamo, la protagonista reagisce e con una grande produzione letteraria al cui esordio, rappresentato da Una donna del 1906, ricordiamoci che era nata nel 1876 ad Alessandria in Piemonte ed era morta a Roma nel 60, seguirono il passaggio nel 19, Amo dunque solo nel 27, Il frustino nel 32, poi versi, diari, eccetera, eccetera. Noi prendiamo un piccolo brano dal Passaggio, perché il Passaggio, per chi non lo sapesse, lo ricordo, è dedicata a una delle donne amata da Sibilla Aleramo, cioè Lina Poletti. A lei ha dedicato tutto il romanzo e in particolare questi brevi passaggi che vi leggiamo. Mi preme così, la bocca con la bocca, in questo brivido vasto d'innocenza, oh lucidoro, una che è donna come me e fanciulla. Una. Tu non puoi sapere, diceva la creatura dagli occhi d'oro. Ella supponeva a se stessa un maschio cuore e foggiata s'era veramente a strana ambiguità sul nativo indizio forse del timbro di voce, forse della tagliente sagoma. S'era foggiata ed agiva con volontà d'uomo, d'angelo ribelle, con forza quasi di dannato. Ma io, nessuno potrà mai giudicare se più demento, più veggente, ero toccata invece da ciò che in lei permaneva d'identico alla mia sostanza. Tentavo persuaderla dal mio canto. Tu non sai quanto il tuo amore sia diverso, per quanto tu faccia, dall'amore che gli uomini possono darmi. Com'è leggera la tua carezza. Non mi penetri, ma mi accosti, come niuno mai. Ti cedo con franco tremore. Hai un piccolo nome che suona come il mio di una volta. È un tenero rossore sulla guancia se ti raccoglie ai miei piedi. Balzi, cosa viva, e le labbra non ti saggelano come a colui che mi desidera. Sei tessuta di calore e sei anche simile a una colonna d'acqua trasparente, attirante. Non sai quanto nostra sia questa allegrezza e quanto nostra questa malinconia così assoluta che reggiamo perché abbiamo ali. Ci muovevamo in un'immensa campana di vetra abbagliante, la vicendevole iniziazione ci dava chiari occhi eroici. Imparai, amore, che il tuo mistero non è nella legge che perpetua le specie. Stralanco renace, mia pensamenti indica, ma bobe fala mami, o mori minha crece. Stralanco renace, mia pensamenti indica, ma bobe fala mami, o mori minha crece. Morena de os divinos, na meia de espinho é um flor que dá branca a minha vida, flor mimosa sem igual. Morena de os divinos. Inutile dire che questa voce meravigliosa che noi stiamo ascoltando è Cesaria Evora, una donna che amiamo moltissimo. La canzone si chiama Fada ed è tratta da São Vicente de Loja. Um dormir dopo la rabbia, la rivendicazione dei propri sentimenti e la passione, beh, pensiamo che ci serva un sorriso lieve. E vogliamo leggere un racconto, Belmar e Zarasca, tratto dal libro Favole per adultere, scritto da Maria Grazia di Rienzo, che oltre ad essere veramente molto carino e simpatico, per noi rappresenta, per noi compagni del CLR, rappresenta un momento molto felice, in cui anche la nostra compagna Caterina era con noi, e vogliamo dedicarlo a Caterina, che in questo momento purtroppo sta combattendo una sua battaglia, e augurandole tanta gioia e tanta forza. Lassù, ove un ponte di nuvole congiunge al cielo la cristallina vetta di un inaccessibile monte, vive una coppia di bellissime e disgustose vecchiette. No, bambine, non sto dando i numeri. Risedetevi e cominciamo da capo. Sono proprio lassù, ed il vostro sguardo a malapena ci arriva, e quando anche scorgeste qualcosa, gli occhi vi dorrebbero a causa della luce limpida e cruda. Due anziane streghe, dall'età perduta, dalla chioma candida, piena di nodi, dalle vesti stravaganti e dalle lingue sciolte. Bellissime, ho detto, e non per mezzo di sofisticati incantesimi, ma perché libere come il vento e come una tempesta potenti. Disgustose, ripeto, perché vivendo sole da secoli, hanno gradatamente perso l'abitudine alle buone maniere. Si infilano le dita nel naso? Sì, anche. Ma la maggior sgarberia, la più grave caduta di bon ton, voi non lo ignorate, è dire la verità. E queste due terribili vecchie la urlano, la cantano, la ballano, la dipingono. Non sono più capaci di mentire. E se vi presentate loro con l'ultimo disco di Eros Ramazzotti, ve lo cacceranno giù per la gola, senza nemmeno fingere di volerlo ascoltare più tardi. I loro nomi sono Belmar e Zarasca, ed esse sono la causa del lesbismo internazionale. Attenzione, non servono la causa, sono la causa. È vero, vi svelo un segreto di portata epocale, con una dozzina di parole buttate là, peggio di ortaggi in una sporta. Ma qui stiamo entrando in un campo dove la scienza resta attonita e muta, e la fede si genuflette reverente. Per quanto roboanti fossero i miei discorsi, non varrebbero i millenni di discussioni e censure, di roghi e abbracci e silenzi che l'amore si porta appiccicati addosso. Comunque, bambine, allegre, se domani il solito pirlacchione vi domandasse «Ma perché siete così?», voi risponderete: «Per quanto riguarda i maschi, non sappiamo nulla di certo, ma noi siamo lesbiche a causa di Belmar e Zarasca, che vivono lassù, dove il cielo è nuvole, eccetera, eccetera, eccetera». Nella loro disordinata dimora celeste, le vecchie custodiscono infatti il calderone di Ceridwin, la mitica coppa della dea, ove si specchia l'immagine riflessa di ogni fanciulla che nasce. Badate bene, esse non scelgono, si limitano ad infilare nell'orecchio di ogni bimbetta un granello di squillante verità. Come un seme, questo dono dorme nella fanciulla finché non viene risvegliato dalla carezza o dal sorriso di un'altra ragazza, dalla poesia letta da un insegnante, da una canzone, magari banalotta, ma che lascia intuire la possibilità d'amore di una donna per una donna. Allora il seme germoglia e la fanciulla comincia ad essere turbata da pensieri quali: chi sono, dove vado e perché? Come se avesse perso memoria, carta d'identità e abbonamento ferroviario. Quando questo accade, Belmar e Zarasca instillano suggerimenti nel suo cuore a seconda della latitudine che ne ha visto la nascita. Cerca la tal libreria delle donne, telefona all'organizzazione XY, parlane con si Assunta. Vai dalla stregona del villaggio vicino e fatti iniziare i misteri d'amore. Bacia sul collo la tua compagna di lavoro in fabbrica, perché è cotta di te. Ti ha dato una sberla. Scusa, non intendevamo quella che hai abitualmente alla tua destra? E quella dietro, a sinistra. Fatto? Ah, lo vedi che funziona? Ed ogni volta in cui due ragazze si guardano con desiderio, le vecchie iniziano una scatenata sarabanda celeste. Stelle cadenti infiammano la notte, precipitazioni sparse vivificano la terra, Nei boschi le fate danzano in cerchi misteriosi e il colonnello Lorenzetti dell'aeronautica deve ammettere, con i telespettatori, che di tutte queste perturbazioni non capisce un'ostia. Scrutando nel calderone, Belmar e Zarasca si tengono informate su quel che succede e aggiornano costantemente le loro mappe dai delicati colori, aggiungendo qui un tocco di violetto e là una pennellata di rosa. «Come va in Irlanda?» chiede ad esempio Zarasca a Belmarra. «Meglio, molto meglio. Vedo che una donna regge ora le sorti del paese e che l'omosessualità non è più illegale. Via!» Zarasca disegna subito un cespuglio di violette sulla verde isola. «E in Italia? Come butto in Italia?» domanda Belmarra. «Certo che è strano», borbotta Zarasca, grattandosi l'arruffata matassa di capelli. «Le lesbiche in questo paese si assomigliano in modo sorprendente. Le vedo comparire in vari programmi o articoli e partecipare a dibattiti pubblici e sono sempre biondine, magrofine, sui 35-40 anni. Non sarà che si tratta sempre della stessa?» azzarda Belmarra con il pennello che sosta a mezz'aria sullo stivale adriatico. «Ma va, ti pare possibile?» replica perplessa Zarasca. «Eppure ne ho viste tantissime alle feste, ai concerti, alle manifestazioni», sottolinea Belmarra. «Ci deve essere qualcosa che non funzioni in Italia». E così si mettono entrambe di buzzo buono a registrare ogni attività delle donne lesbiche italiane, a infondere in ognuna serenità e coraggio e allegria, a stimolarne la solidarietà e l'impegno, a leggerne i cuori, finché, all'unisono, saltano in piedi scandalizzate, facendo traballare il calderone e sghignazzare Ceridwin la dea. «Per dirci baffo, e può farre!» «Sto edulcorando che le vecchie sono ben più sboccate. Non sanno che esistiamo. È pazzesco, inaudito, tremendo. Bisogna agire subito. Talmente di fretta vanno che me le trovo di fronte stamattina mentre vado al lavoro». «Beh, sulle prime le prendo per due nomadi e sorrido scusandomi. E no, signore, non ho intenzione di farmi leggere la mano. So già di avere sul groppone una sfiga abissale e sono pure in ritardo. Buona giornata ad entrambe. Ferma là!» mi sibila Belmarra, tendendo una mano adunca fra stracci variopinti. «Tu scrivi, vero?» Resto allibita. E Zarasca mi incalza. «Scrivi di lesbismo, eh?» «Beh, sì, anche. Non è che sia una specializzazione», balbetto. «Bene!» ululano in coro, fregandosene della mia risposta. E mi ingiungono di raccontarvi quel che in effetti vi ho raccontato sino ad ora. «Ecco, ma siete proprio sicure?» ho tentato, mentre già cominciavano a liberarsi verso l'alto, ridacchiante e soddisfatte. «Io non sono una scrittrice vera. Sapete, è una cosa, insomma, a livello amatoriale. Perché non avete cercato Dacia Maraini o Margherita Giacobino? Accidenti a voi! Per favore, tornate qui, non mi crederà nessuno! Abbiamo tutto il mondo di cui occuparci e pochissimo tempo da perdere», ha puntualizzato Belmarra. «Sei stata scelta tu ed hai quindi il dovere di fare del tuo meglio, per umile che sia. E poi», ha aggiunto Zarasca, «sei l'unica abbastanza matta da trovare perfettamente normale un incontro con noi. Credi veramente che la Maraini ci sarebbe cascata? Ma andiamo!» Pararai rotonga, tararai rotonga, pararai rotonga, tararai rotonga, pararai rotonga, tararai rotonga, pararai rotonga, tararai rotonga, pararai rotonga, tararai rotonga, tararai rotonga, tararai rotonga, tararai rotonga, tararai rotonga, tararai rotonga, Oh, yeah.